Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Passarono alcuni giorni senza che la situazione mutasse. Garibaldi, dall'alto della cupola di San Nicola, scrutava spesso la linea dell'orizzonte col cannocchiale spianato. O curvo sulle carte studiava i suoi piani o riceveva la gente e le commissioni che venivano a trovarlo. Finalmente si imbarcò con tutti i volontari e non si sapeva dove diretto, se in Grecia o in Albania. Ma dopo la partenza, un lievito di scontento restò nella città, una sorda agitazione che le persone influenti e la stessa Guardia Nazionale non riuscivano a sedare. Il movimento era adesso contro i signori, contro i ricchi. Giulente aveva arringato i tumultuanti, ma nessuno lo ascoltava più. Il duca gli scriveva ancora che non poteva venire, che stava poco bene, che i grandi caluri gli avevano rovinato lo stomaco. Un dopo pranzo che Don Blasco aveva arrischiato per la prima volta una visita alla sigaraia, dove, ridiventato un energumeno, augurava il reciproco sterminio dei garibaldini e dei piemontesi, arrivò Garino, giallo come un morto. «La rivoluzione! La rivoluzione! Bruciano il casino dei nobili!» Giulente tornava a pregare il duca di farsi vivo, di venire a metter la pace nel paese. Il duca non venne. Rispose ancora che i medici gli avevano vietato di tornare in Sicilia. «Sono disperato. Non posso trovarmi fra voi come dovrei e vorrei, non solamente per tutto ciò che mi dici di Catania, ma anche per ciò che è avvenuto a Firenze». Benedetto non sapeva che cosa lo desse. Lì per lì non pensò neppure che Raimondo era in Toscana. Seppe qualche giorno dopo di chi si trattava, quando arrivarono insieme il conte e donna Isabella Fersa e scesero all'albergo sempre insieme come fossero marito e moglie. L'impressione prodotta da quell'avvenimento fu tale che tutto a un tratto Garibaldi e Rattazzi, Roma e Aspromonte passarono in seconda linea. Il conte Uzeda con donna Isabella. Pasqualino Riso, reduce da Firenze col padrone, fu assediato di domande. Che il continuo non potesse durarla a lungo con la moglie, egli l'aveva previsto da un pezzo, e tutti avevano potuto accorgersene l'anno innanzi, quando il signor Don Raimondo era scappato lontano da quella donna che gli amareggiava l'esistenza. Lo sapevano tutti che egli voleva bene a donna Isabella. E la storia di Pasqualino passava di bocca in bocca. Era ripetuta dai cocchieri ai famigli, dai guattieri ai cuochi, dai portinai agli affittacamere, ciascuno dei quali ci ricamava su qualcosa del proprio, finché, arrivando al gran pubblico, preparava l'opinione e guadagnava simpatia alla causa del conte. E il martirio della contessa Matilde era ricominciato, più atroce di prima, accresciuto dal nuovo disinganno, dall'impossibilità di ricorrere al padre, non già perché ella credesse all'abbandono di cui l'aveva minacciato, ma per una specie di impegno contratto dinanzi a se stessa di non confessare l'errore e per l'antica paura d'un urto tra quelle due nature violente. Suo padre, quando ella si sentì più sola e perduta, la raggiunse. Alle ingiunzioni sordamente minacciose del barone che gli diceva «Non vuoi finirla? Non vuoi?» Raimondo aveva risposto col tono consueto di sprezzante superiorità. «E di che intendete parlare? Mescolatevi di ciò che vi riguarda». Col sangue agli occhi e il pugno levato, il barone aveva già agguantato il genero, ma era bastato a Raimondo dire una sola parola. «Facchino!» Il continuo Uzeda, il minuto e fiacco discendente dei viceré, fulminava il barone contadino con quella parola, con quell'insulto, che diceva la distanza da cui erano separati il signore vizioso ma ben educato e il manesco villano ringentilito. Thank you. C'erano in città anche Benedetto e Lucrezia, che si era poi fatta coraggio. Raimondo andò a trovarli il domani del suo arrivo. Lucrezia gli restituì la visita nella stessa serata, non curando l'opposizione del marito. Raimondo aveva intenzione di prendere in affitto un quartiere in città. Ella giudicava preferibile una villetta, anche per evitare le indiscrezioni della gente. In campagna, nelle ville dove la notizia dello scandalo giungeva, tutti discutevano della condotta da tenere verso la coppia al ritorno in città. Molti dichiaravano che avrebbero troncato ogni rapporto, altri più intimi, perciò più imbarazzati, facevano dipendere la loro risoluzione dal modo col quale si sarebbe comportata la famiglia. Il pensiero delle dimostrazioni ostili che si preparavano a lui e all'amica sua lo arrovellava, gli metteva un'altra smania nel sangue. E un giorno prese una carrozza e salì al Belvedere. Giacomo, vedendolo arrivare, gli disse, non nel dialetto familiare ma in lingua: «Buongiorno, come stai?» E senza stendergli la mano. «Bene, e tu?» rispose Raimondo. «Benissimo!» E il principe si lisciò la barba. La principessa, che si teneva accanto Teresina intenta a ricamare, rispose a monosillabi alle domande del cognato, sentendo pesarsi addosso lo sguardo del marito. «Resterete ancora un pezzo?» domandò Raimondo, rosso come un papavero. «Sì, fino a novembre. Te lo mandai a dire, credo». E lasciò di nuovo cadere il discorso. La bambina volgeva tratto tratto lo sguardo a quello zio di cui non rammentava bene le fattezze, che non l'accarezzava e che suo padre trattava come un estraneo. «Volevo dirti una cosa», riprese Raimondo esitante, quasi pauroso e tanto più crucciato contro se stesso quanto più cresceva il suo impaccio. «Volevo domandarti se c'è qualche villetta da affittare. Una casetta che faccia per me. Non importa se piccola, purché pulita». Il principe parve cercare nella memoria. «No», rispose. «Tutto è preso, fin da quando passò Garibaldi». Raimondo, che si torceva i baffi nervosamente, insisté. «Cercherò, ad ogni modo». Per avere altri parenti dalla sua, andò a cercare dello zio Eugenio. Il povero cavaliere era molto giù. Il commercio dei vecchi coci non rendeva più niente e Vittorio Emanuele poteva forse dare una cattedra al gentiluomo di camera di Ferdinando II. I parenti lo tenevano un poco a distanza, temendo richieste di quattrini. Ma vedendosi cercato da Raimondo, egli fiutò un tratto il buon vento. Andò subito a trovare donna Isabella, si dichiarò per lei contro il principe, si invitò tutti i giorni a colazione e a desinare. Don Blasco era giorno di tutto. E dimenticata un tratto Garibaldi, non faceva altro lassù che gridare come un ossesso contro Raimondo, che aveva fatto l'ultimo e più grande imbroglio. Poi contro Giacomo, non meno imbroglione del fratello, verso il quale, dopo avergli tenuto il sacco, faceva adesso il puritano. E perché? Per strozzarlo! All'arrivo dei nipoti, dopo il refettorio, egli dormiva come un ghiro, quando fra Carmelo lo destò. «Che c'è?» vociò. «Perché mi rompi il capo?» «Vostra paternità, mi scusi, ci sono i parenti di vostra paternità». E Don Blasco apparve. Per la prima volta da che viveva, Raimondo vedeva lo zio venirgli incontro e l'udiva domandargli con voce quasi garbata: «Come stai?» C'era adesso da spingere l'uno contro l'altro i due fratelli, da dar mano a disfare un'altra opera della principessa defunta, il matrimonio di Raimondo. Egli si sentiva invitato al suo gioco. Thank you. Arrivati che furono alle ghiande, Raimondo e donna Isabella vollero visitare la casa, il giardino e il podere e profusero elogi per l'ottima coltivazione della vigna e per il magnifico aspetto del frutteto. Approvarono la trasformazione delle colture, ammirarono ogni cosa. Ma le lodi non facevano più sul povero Babbeo l'effetto d'un tempo. La cosa era andata a questo modo: che il libraio, dal quale aveva comperate le opere d'agricoltura, di meccanica e di storia naturale, trovandosi una quantità di opuscoli di medicina di ignoti autori, tesi di laurea di dottori asini, vecchi ricettari farmaceutici, fascicoli spaiati di enciclopedie anonime, tutta cartaccia che non si poteva vendere altrimenti che a peso, gliene propose un giorno l'acquisto, dandogli a intendere che c'era dentro il fior fiore della dottrina. Egli la pagò salata e si mise a legger tutto. La descrizione dei morbi, l'enumerazione dei sintomi, la difficoltà delle cure lo atterrì. A poco, per un colpo di tosse, per una digestione difficile, per un dolore di capo, per un leggero prurito, per un formicolio in pelle, credette d'avere tutte le malattie. E quell'idea, ficcatasi nel suo cervello di solitario misantropo, aveva compita una devastazione. Allora entrò in scena donna Isabella. Invece di contrariare il maniaco, prese a secondarlo. Riconobbe l'esistenza e la gravità delle sue malattie, l'inutilità delle prescrizioni mediche. Però, se i dottori ci perdevano il latino, non poteva egli provare almeno qualcuno di quei rimedi empirici che certe volte fanno miracoli? Quando ero ragazza, anch'io ebbi un catarro intestinale lungo e ostinato più del vostro. Sapete come andò via? Con l'insalata di lattughe. Il latte, le uova, il moto, la nettezza lo ritornarono in vita e dalla gratitudine verso donna Isabella gli spuntavano i lucciconi. Che donna, che testa, che intelligenza! Un giorno arrivò da Lucrezia mentre moglie e marito discutevano vivamente. Al suo apparire essi tacquero. Di che parlavate? Si parlava della situazione di Raimondo, rispose sua sorella decidendosi di metterlo a parte del segreto. Non può durare a lungo così, bisogna pensare a legittimarla, sciogliendo i matrimoni. Ella annunziava quel partito con la stessa semplicità con cui Raimondo e donna Ferdinanda lo avevano partecipato a lei. Chiedere ed ottenere il doppio annullamento di matrimonio era, per gli Uzeda, una cosa semplicissima. Chi poteva negare ai viceré ciò che essi volevano? Bisognava, per riuscire in questa impresa, essere bene indirizzati, perciò volevano l'opera di Benedetto. Come la prima volta che gliene avevano parlato, Benedetto titubava, arrestato dagli scrupoli, con la coscienza del male che gli facevano commettere, delle difficoltà enormi dell'impresa, del dispiacere che avrebbe fatto allo zio Duca, tanto amico di Palmi. Ma sua moglie insisteva a dimostrargli che gli scrupoli erano sciocchi, che anzi l'opera sarebbe stata meritoria. Cominciamo che il Tribunale Civile non era buono di annullare un matrimonio contratto sotto il codice napoletano del 1819. Bisognava rivolgersi alla Corte Vescovile. Ma qui cascava l'asino, perché Monsignor Vescovo e il Vicario Coco e il Canonico Russo e tutti i maggiorenti della Curia erano col principe contro il conte, giustamente, sapendo i torti di Raimondo e della Fersa, e non potendo metter mano a sanzionare uno scandalo di quella fatta. Il barone faceva certi giuramenti tremendi per dire che mai, mai lui vivente, suo genero sarebbe riuscito a rompere il matrimonio. Il pezzo più grosso da guadagnare era però Monsignor Vescovo, il quale adesso non faceva nulla senza l'approvazione del priore Don Lodovico. Questi, persuaso che l'abolizione delle comunità religiose era questione di tempo, disinteressatosi di San Nicola, si era rivolto al Vescovato, dove la sua nascita, la sua reputazione di intelligenza, di dottrina e di santità gli avevano spalancato le porte. Ora, se gli avesse detto una parola a favore di Raimondo, il matrimonio di Donna Isabella sarebbe stato annullato. Ma Donna Ferdinanda, che gli si metteva alle costole per guadagnarlo alla causa della sua protetta, il priore rispondeva ambiguamente, adducendo le difficoltà da superare e l'imbarazzo in cui lo mettevano. «Io ho i miei doveri da compiere, la mia coscienza». «Coscienza? Coscienza!» Donna Ferdinanda, che stava a sentirlo a bocca chiusa e a denti stretti, una volta cantò. «Lasciala da parte, la coscienza! Di piuttosto che non gli hai ancora perdonato d'aver preso il tuo posto e gliela vuoi far pagare, ora che l'hai nelle forbici!» La cugina Graziella andava dicendo dovunque che neppure la causa civile sarebbe andata avanti, che i giudici avrebbero essi fatto un processo per falsa testimonianza a chi sarebbe venuto a deporre per il mancato consenso. Figuriamoci poi la causa ecclesiastica. Lodovico lo ricevette a braccia aperte e lo ascoltò con attenzione benevola. Raimondo gli disse, un po' pallido, «Ti prego d'aiutarmi». Invocava il suo appoggio per uscire dalla falsa situazione in cui si trovava. Era urgente legittimarla per una potente e nuova ragione che nessuno ancora sapeva, che confidava a lui prima che a ogni altro. Donna Isabella era incinta. «Allora, posso fare assegnamento su di te?» «Certo, certo. Ma v'è un'altra questione. Nel caso presente non si tratta tanto di giustizia astratta quanto di prudenza mondana. Ora, come vuoi che questo provvedimento sia stimato giusto se nella nostra stessa famiglia, se il capo della nostra casa non riconosce le tue ragioni e ti condanna con tanta severità?» «E se Giacomo si piega?» insiste Raimondo. «Sarà un gran passo innanzi. Sai bene quali relazioni egli ha tra quanti circondano Monsignore. Una sua parola varrà molto più della mia». Raimondo, tornando alle ghiande, mandò a chiamare il signor Marco. Chiusi in camera tutti e due, restarono pochi minuti a confabulare. Il domani, nella sala gialla, la cugina Graziella, venuta prima di colazione e trovata la principessa in compagnia di Don Mariano, se la prendeva con più calore del solito contro Raimondo e l'amica sua, quando Baldassarre, entrato senza far rumore, annunziò con la consueta sua bella serenità: «Il signor Conte e la signora Contessa». La cugina restò di sale. Raimondo, la Contessa. E il principe sopravveniva, stringeva la mano a Raimondo dicendo: «Cognata e cugina, resterete a colazione con noi?» Thank you.